Il punto di Stefano Folli. Ora la minoranza del PD, quella che era in piazza con la CGIL e anche quella che è rimasta a casa senza farsi notare, ha due scelte. La prima è fare opera di testimonianza, come sabato a Roma, ma continuare a essere leale verso il governo, pur con sofferenza. Vuol dire scegliere il quieto vivere, sapendo di contare poco o nulla. La seconda è uscire allo scoperto, tentando una mossa politica, il che vuol dire sabotare in ogni occasione il governo Renzi, fino al punto di metterlo in crisi, soprattutto al Senato, dove i numeri sono stretti. Questa strada porta ovviamente alla scissione del PD, ma conduce anche alle elezioni anticipate, nelle quali Renzi potrebbe presentarsi come il campione della nuova Italia, che raccoglie il voto trasversale degli italiani, dal centro-sinistra al centro-destra, mentre nascerebbe un nuovo partitino di estrema sinistra. Se la logica ha un senso, la minoranza del PD sceglierà la prima strada, quella più tranquilla, ma non è detto che il Premier non la spinga invece verso la seconda, quella per lui più utile.